parlo con la zanzara. Ciao belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani. Che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa. No, niente male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Andavo anch'io, caro Parenzo, come un sorcino qualunque, con gli accendini in mano, non fumavo, con l'accendino in mano, così, a cantare queste canzoni, Orgoglio Gay, o come diavolo si chiama, Onda Gay, scusa, Onda Gay, non mi ricordo più nulla, ho l'Alzheimer, Onda Gay, con l'accendino, ai concerti di Renatone, amico mio, dimmi, che c'è? No, ma pagavi, dico, il biglietto o no? Ma certo che pagavo, ma è normale che. Ma mica sono come te che va al concerto di Vasco Rossi e non paga. Ecco, amico bravo, mio. Cominciamo subito a dire le cose. Non paghi! Stasera sei al concerto di Vasco Rossi a Roma e non paghi! Sono non paghi, vergogna! Sono i miei amici dell'ufficio stampa. Come vergogna, sono... ma vergogna! Tu lo vuoi sentire, ma il capitano tra poco o no? Sì, ma certo, se c'è il capitano c'è sempre. Anzi, il comandante, perché sono a pochi metri. Dal comandante. A pochi metri dal. Però dal, diciamo una cosa, da privilegiato quale sei? Da privilegiato quale sei? Vai come scatenare? Tutti i privilegiati. No, come no. Tutti i privilegiati, no, al no. Concerto di Vasco Rossi senza pagare un euro. Sto facendo a buffo, un grande a buffo. Racconto vabbè, popolare. Ma quale racconto popolare? Di un evento che porta qui più di 50.000 vabbè, persone. Senti, adesso non fare il solito lecchinaggio nei confronti delle persone che ti hanno dato il biglietto per entrare da Vasco Rossi, che non è il caso. Allora, passano avanti. Due o tre giorni e si ribalta il mondo. Io non volevo tornare a parlare sempre di froci, di omosessuali, di gente che lo piglia in quel posto, no. Eccetera, eccetera. No. Cosa peraltro, come sapete, super legittima, che io approvo in pieno. Se uno vuole godere prendendolo in quel posto e dandolo in quel posto, sono affari suoi. Per me si può anche sposare. È un bel ambiente. Ambiente di maiali. No, adesso non esageriamo, sono stato al Gay Village venerdì sera, ospite della meravigliosa Vladimir Luxuri, ho trovato un ambiente normalissimo, di gente normale, gente che parla, gente umani, persone umane, ma lo sapevo. Caro professore, c'era anche il suo, no? La sua immagine per le freccette. Vabbè ragazzi, però diamo un po' di ordine, perché abbiamo cominciato in maniera molto, molto così sulfurea, molto impalpabile. Molto confusa. Allora, sono passati due o tre giorni e si è ribaltato il mondo, perché addirittura è successo che Vittorio Feltri e Francesca Pascale, nuova coppia della politica italiana, chiedono l'iscrizione all'Arci Gay. Cioè non chiedono, non sono solo favorevoli al matrimonio omosessuale, forse anche all'adozione, poi vedremo. In realtà chiedono l'iscrizione all'Arci Gay, che è una cosa diversa. L'Arci Gay è una roba, era soprattutto una roba comunista, capito? Una roba comunista della sinistra italiana. Chiedono l'iscrizione, vediamo come andrà a finire, perché alcuni dicono storcono il naso di fronte a questa cosa. In più Berlusconi fa una grande apertura, dice di essere favorevole. Poi Berlusconi, sai, Berlusconi fino a qualche tempo fa si esprimeva in questo modo: meglio la passione per le ragazze che essere gay. Sentite. Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro, e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Un'altra volta se ne uscì così Berlusconi: l'unica accusa che non mi fanno è di essere gay. Di accuse da parte della sinistra ne sono state formulate tante al mio riguardo. Le uniche accuse che non mi sono ancora venute addosso sono quella di essere gay e di rubare i soldi degli italiani. Febbraio 2011, no ai gay come famiglia e no alle adozioni. questo paese le unioni omosessuali non verranno mai equiparate alla famiglia tradizionale. Finché noi governeremo questo paese non saranno mai possibili le adozioni per i singoli né per le coppie gay. Contro il crocefisso che Bitonci, sindaco di Padova, vuole rendere obbligatorio in tutti gli edifici pubblici. Poi c'è, io sono contro questa cosa, Parenzo è contro questa cosa. Che succede lì da Vasco Rossi intanto, Parenzo? Che succede lì? Cosa si muove lì? David! E meno male che stava al telefono fisso, Vasco Rossi e il concerto. Parenzo! Non ne posso più, ragazzi, non ne posso più. Oggi che è il 30 giugno, mancano 4 settimane, non ne posso più, non ne posso più. Allora, che orrore! Sì, sì, e fai bene a dirlo che orrore, fai bene a dirlo che orrore. Il crocefisso, secondo Paolo Crepè, è un'immagine talmente brutta, quella del crocefisso, talmente brutta, che bisogna sostituirla con quella del bambino che ride, del bambino contento, del bambino Gesù. Io non sono cattolico, per cui no, no. Però non capisco perché non mette un bambino Gesù invece del crocefisso. Ma sì, è un torturato a morte. Siccome ci sono anche nella Chiesa cattolica, c'è anche il bambino Gesù che sorride, visto che insomma deve stare anche 5 ore in un liceo che tutti i ragazzi lo guardano, è una roba che ti fa venire l'angoscia, no? Cioè, è come mettere uno sulla sedia elettrica. Molti cattolici, caro Parenzo, si sono arrabbiati, ci hanno scritto incazzati, eccetera. Li capisco. Ma questa è la Zanzara, amici miei. Non è che siamo al convento, ma non è il convento questo qua. Cosa ma mi aspetta? Io non condivido questo. Tu non condividerai. Io. No, perché ci vuole rispetto per chi crede. Ci vuole rispetto per chi crede. Anche Oliviero Toscani pensa, come sai, che quell'immagine lì, il crocefisso, il Cristo in croce, sia addirittura un'immagine pornografica. Senti, ma il crocefisso per te che cos'è? Ma è abbastanza pornografico come immagine, eh? C'è uno attaccato, inchiodato su una croce. No, ma è abbastanza incredibile. No, ma scusa, guardalo bene, adesso non fare il cattolico, pensa di arrivare da un altro mondo. Vedi una persona così, in questa condizione. Ma la pornografia non è solamente sesso, è anche quel gusto lì, insomma. Ma dico, è l'immagine di un sadismo incredibile, per di più davanti al quale tutti ci inginocchiamo, e mi sono sempre chiesto. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. Pronto Pellegrini? Sì. Sono Giulio Ligifiano. Scusami, non è il bambino cemo, e tu e due cretini, perché quando loro no, non c'è un cazzo da fare, rompono coglioni, basta. Perché cretini, lei vada avanti con tua strada perché sei grande personaggio. Non permettere al tiranno di accecarti. Secondo me questo egiziano che ha chiamato Radio Padania e Pellegrino voleva pigliare per il culo. Vai avanti, tu sei grande, vai avanti. Sani Padania, fai vedere quei due lì della Zanzara, quei due stupidotti lì, no? Che fanno una trasmissione demenziale, forse sono gli unici due. Il sottoscritto sono 40 anni che lavora, perché non ci manda quei due lì a sporcarsi le mani a 1300 euro al mese? Quei due scimpanze lì, che fanno le trasmissioni, quei due coglioncelli lì, non si può. Le mani loro con 1100 euro al mese, invece di dare dei soldi a via delle stronzate tutte le volte, che sparano cagate su tutto e non sanno niente. Va bene, grazie. Naturalmente. Critica politica. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Non voglio toglierti i soldi, sai. Per trasparenza sarebbe giusto che tu dica quanti ne prendi, 500.000, 700.000. Il fatto è che lì ci sono cifre veramente molto, molto, molto, molto, molto, molto alte. Così almeno si gioca a carte scoperte, cioè si gioca in modo leale e onesto. Due parole che forse a casa vostra non hanno cittadinanza. Il potere falso che ci spreme sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Tutto per la vita. Pronto? Professore, professore, professore, professore, come va? Avete finito? Abbiamo finito, vabbè, professore Taormina, dai, su, e che sarà successo? Un abbraccio fortissimo, professore. Sì, sì, tu stai al posto tuo, bello mio. Ma guardi, gli irregolari, a noi piacciono sempre gli irregolari, dunque se a noi piace Taormina, a Taormina dovrebbe piacere la Zanzara, il massimo dell'irregolarità, gli eretici. Non dovete eccedere, perché ci sono dei limiti oltre i quali c'è ma lei lo dice abilità, lo dico io, no? Lei io dico... i limiti, dai, su, avvocato. I limiti, no. Lei è stato per anni il re della provocazione. Perché sono morto adesso? Perché no. È stato per anni, non ho capito. No, per carità, morto mai. Comunque, la cosa fondamentale di cui bisogna parlare è questa grandissima svolta di Berlusconi sugli omosessuali. Questa è stata veramente una cosa grandissima. Sa che noi, da grandi cultori della cultura omosessuale, da grandi anche, come dire, portabandiera del matrimonio, dell'adozione, siamo molto felici di questa cosa. Ma secondo lei è vera questa cosa o no? Questa svolta è tutta fuffa, questa di Berlusconi? Ma è tutta politica, naturalmente. Credo che ormai siamo arrivati alla prostituzione della politica, perché per fare una raccolta di consensi a tutti i costi, specialmente in momenti come questi, sì, nei quali il degrado dalla parte del centrodestra, sì, è assoluto, è evidente che si cerca in qualche modo di erodere qualche spazio a sinistra, e questa è la storia di sempre: la sinistra erode a destra e la destra erode a sinistra. Ecco, ma lei la considera una cosa reale? La considero una porcata prima di tutto, sì. Anche se devo dire, insomma, che già noi abbiamo un sistema, di diritto civile che consente comunque a chi ha una posizione di convivenza di mettere appunto tutte le garanzie. Vabbè, non c'è l'eredità, come lei sa, non c'è se ne frega. Ma no, ma che c'entra? Uno fa un legato oppure nomina erede universale. La ma no, poi ci sono. È diversa la cosa. No, questa è l'anticamera. È l'anticamera, questo è il problema. Di che cosa? L'anticamera dei successivi matrimoni gay, che saranno sicuramente imperverseranno anche il nostro paese, come sta avvenendo. Imperverseranno, e che sarà mai quando no, si vede. No, è la verità dei fatti. Questa è soltanto una operazione. Vede che Scalfarotto, che è una persona intelligente, dice: intanto prendiamoci questo, perché poi viene il resto. Ma giustamente, perché ormai questa è. Ma certo, poi viene l'adozione. Ma viene tutto. E che viene? Che dopo l'adozione che c'è? Scusi. Ma non lo so che c'è, faranno. Si inventeranno qualche altra cosa sicuramente. Scusami, professore. Dovresti cogliere questa occasione straordinaria. Parlate con Papa Francesco, che forse lui è l'unico che vi capisce a questo punto. Perché? Io non vi capisco più. Perché? No, ma guarda che Papa Francesco è dalla parte degli omosessuali. Come... No, appunto, e parlate con lui. Ma che anche lui si è impazzito, secondo. No, beh, insomma, certamente secondo le regole, come ho sempre detto, una cosa è il rispetto delle persone, un'altra cosa è. Questo sempre, questo sempre, sì. L'osservanza di determinate. Al mondo della natura, che devono essere assolutamente rispettate. Sempre rispettate. Mi dispiace, ma per cui Papa Francesco è contro i precetti della Chiesa. Lo vedremo quando prenderà posizioni ufficiali. Intanto, questo, diciamo così, questo ammiccamento. Questo ammiccamento mi pare abbastanza significativo. Comunque, siamo destinati ad essere una maggioranza silenziosa. Ma lei resista, però. Lei resista, oppressa. Sia tranquillo, è oppressa. Bisogna resistere su ogni fronte se uno è convinto delle proprie idee. C'è Elton John dice: Elton John, il cantante, le conosce Elton John? Come no? È buono pure quello che ha fatto. Allora dice: Gesù sarebbe favorevole alle nozze gay. Sì, l'ho letto, sì, ma lui si è fatto un Gesù per conto suo, perché credo che proprio non fosse questa la posizione di Gesù di Cristo, no, che penso proprio di no, guardi. Cioè, ormai ognuno si piega tutte le cose al suo piacimento. Ma Berlusconi perché ha fatto questa uscita? Perché? Ve l'ho detto, perché è in crisi di presenza politica, e quindi non sa cerca come di raccattare voti ovunque, cerca di raccattare voti ovunque. Ma poi lo sa, ma c'ha pure un problema di, diciamo così, di narcisismo soppresso, perché appunto ormai non se lo fila più nessuno e quindi cerca consenso coi gay. Certo. Coi gay perché c'è anche la Pascale che si ecco, poi torniamo sulla Pascale perché la cosa è interessante. Traffico, il professore Carlo Tormina, grande ritorno alla Zanzara, si deve parlare pure della storia della Franzoni, che ha colpito molti, scarcerata, anche se domiciliare dopo 6 anni. Buonasera canaglie. La Zanzara, la Zanzara, la Zanzara stronza. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Gira che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Ragazzi, è tornato da noi incazzato come una biscia, però per adesso calmo, l'avvocato professore Carlo Taormina, ex di Forza Italia, anni fa, ormai non è la stessa Forza Italia di adesso, che ha detto che l'apertura di Berlusconi nei confronti del mondo gay è una porcata. Allora, avvocato Taormina, posso dirti però una cosa subito, sì, perché io pochi secondi fa ho chiamato il professore. Lo dovreste chiedere anche agli iscritti e agli elettori di Forza Italia se gli va bene questa cosa, perché se vuole perdere un'altra metà dell'elettorato, questa è la strada giusta, che se ne dica, perché ha voglia che si facciano conventicole nel Parlamento o nelle sedi dei partiti per fare questo tipo di scelte. Però, avvocato, la gente di Forza Italia è contraria. Ma chi l'ha detto? Glielo dico io e vedrà. Comunque non capisce Berlusconi, che lo stanno tirando verso l'abisso. L'abisso, bravo. Scusate, professore, però io ho visto un suo cartonato l'altro giorno. Sono andato al Gay Village con la signora Luxuria. La signora Luxuria è stata da me correlata, poi mi risponderà in tribunale. Addirittura. Ma certamente. Ma perché, che ha fatto la signora Luxuria adesso? Lei lo sa meglio di loro, lo sa meglio di chiunque altro. Vabbè, ma ha giocato un po' su quello che ha detto. No, io non ho mai giocato con lei. Lei deve sapere, la Luxuria deve ben sapere, perché ci conosciamo, quanto sono stato sempre molto corretto nei suoi confronti. È stata veramente uno squallore unico quella trasmissione che ho risentito ha detto che lei è fuori dal mondo, ma fuori dal mondo ci sta lei, ci sta fuori dal mondo. Altra perché? Perché è vestita da donna e c'ha il coso là in mezzo alle gambe, è liberissima di stare come crede senza rompere le scatole al prossimo. Comunque professore, perché secondo lei la Pascale ha fatto quell'uscita sui diritti gay? Stanno tutti in politica. No, ma perché la Pascale ha fatto quest'uscita? Per non lasciare solo Berlusconi. No, l'ha fatta prima, l'ha fatta. Per un altro verso, per istigarlo a prendere lo stesso atteggiamento. Sono giochetti che si... Oh, ma lei è convinta di questa cosa? Ha fatto un'intervista, ha detto che... è convinta, tutto quello che le pare, però nel DNA di Forza Italia e del centrodestra italiano non c'è mai stata questo tipo di impostazione. C'è stato sempre rispetto nei confronti di determinate posizioni. Però no al matrimonio, no! Ma c'è un codice civile che consente di ottenere gli stessi risultati, quindi qui si tratta soltanto di una operazione demagogica diretta da una parte a cercare di guadagnare voti, invece ne perderà, e da un'altra parte ad aprire la strada a ulteriori passaggi che a lei fanno orrore, diciamo, a lei fanno ribrezzo, no, fanno schifo al 90% delle persone. Ma no, non fanno schifo un bambino cresciuto da due uomini che gli vogliono bene, professore, è una cosa fantastica. Non mi ci frega più, sa, no, frega. Ma è una cosa, quando due uomini abbracciano un bambino, bellissimo, meraviglioso. Ma non è meraviglioso, è una fonte di educazione, di raffinatezza culturale, la finalezza culturale. Comunque qualcuno dice anche che gli uomini, la maggior parte dei pedofili sono gay, qualcuno dice. Io non so può darsi. Come la pensa lei, professore? Ma potrebbe darsi. Ma sa, io non ho esperienze concrete, perché, però certamente siccome la deviazione mentale è forte, è chiaro che potrebbe ruotare nella stessa orbita. Cioè, secondo lei è plausibile che la maggior parte dei pedofili siano gay? È probabile, essendo una deviazione mentale, dice lei, vabbè, comunque. Una deviazione fisico-mentale. Fisico-mentale, vabbè. Sì. La Franzoni, è giusto far uscire la Franzoni dai domiciliari o una vergogna? Per me è una vergogna. Per me è molto giusto invece, perché è nelle radici del processo questa storia, perché fin dal processo c'era stato un problema di considerare l'omicidio, se l'ha commesso l'omicidio che le veniva attribuito, come il frutto di un momento di instabilità psichica e che quindi non poteva... Che adesso non c'è più, d'accordo. Ma guardi, che fu fatta già a suo tempo, per mio tramite, una perizia per accertare la pericolosità o meno della Franzoni, e fu esclusa la pericolosità. Vabbè, ho capito, uno dopo sei anni, professore, non è che può uscire dal carcere dopo sei anni e si è ammazzato un bambino, per lei è innocente, è un altro discorso. Però... Ma guardi, intanto sei anni non sono pochi. Come non sono pochi? Anni. Sono anni che ha trascorso in carcere e gli altri che passeranno lo saranno in arresti domiciliari. Va bene, d'accordo, ma è fuori dal carcere. Limitazioni, addirittura non può uscire dalla provincia di Bologna. Insomma, c'è il controllo del. Il professor Crepè ha detto addirittura: allora liberiamo tutti. Allora liberiamo. Ma prima di liberiamo Crepè dalle sue ossessioni. Ma che ossessioni c'ha il povero Crepè? Allora liberiamo tutti quelli che hanno ammazzato i bambini. Dopo sei anni, mettiamoli tutti a domiciliari. Ma lei vuole ancora i soldi dalla signora Franzoni? Anzi, se è uscita, lavora e può guadagnare e mi può pagare meglio. Ma stai domiciliaria, può lavorare. C'ha 4 ore di libertà al giorno per andare a lavorare. Per cui. E dunque? Meglio. Ma quanto vuole? Quanto vuole in tutto? Quanto ammonta? Adesso la cosa è nelle mani dei magistrati. Ma sempre 800.000? Sempre 800.000 sono, più o meno. Aumentano perché ci sono gli interessi. E dunque ormai siamo sul milione? Ci siamo. Ci siamo, Dunque per lei è più facile adesso che mi dia i soldi la Franzoni perché è uscita dal carcere? Dico così per dire, o no? Certo. Mi pare logico, ci avrà più possibilità di. E che ne so io, professore, se non me lo dice lei. Che io mica faccio mica sto a casa della Franzoni. Ok, ma i soldi li prende lei. Certo, li prendo io. Dovrebbe prendere, dato sai che non mi piglierà mai quei soldi, no? Lei dice. E come facciamo? Che fa? Gli pignola la casa? Che fa? Vedremo. Vabbè, professore, un abbraccio comunque. Abbiamo notizie. Un abbraccio, professore, non si incazzi troppo con noi, che siamo irregolari come lei. Siamo irregolari come lei. Siamo in balia degli eventi come lei. Dovreste essere irregolari fino in fondo. Fino in fondo. Lo sa che mi ci ha fatto pensare, siccome sono tutti omosessuali e tutti feroci, bisognerà cominciare a essere un po'. Vabbè. Tutti i discorsi che fa Cruciani inizia dai soldi, dalla politica, ma va a finire tutta puttana alla fine. Scusate se vi ho disturbati. Mi interessa perché non ha mai fatto una biura rispetto a quando scriveva sulla rivista questa storia, la difesa della razza. Però ma non mi faccia ridere, guardi, è proprio invecchiato lei, È invecchiato anche male, invecchiato. È proprio un catananno. Scusi, ma il suo è un catananno lei. Come si dice da un'assunta, scusi? Catananno, che vuol dire vecchio. In Calabria si chiama, quando uno è rimbambito lo chiamano catananno. E questo signore rimbambito, poverello, che pena che mi fa. Ma lei ha avuto la meningite, forse ha avuto questa meningite e non se ne è accorto. Ma come si permette? Ha avuto la meningite? Ma io ricordo semplicemente ogni volta che posso che suo marito, pace all'anima sua, scrisse con Telesi. Ma faccia la cortesia, Almirante ha fatto 100 anni e ancora parla di una cosa quando ne aveva 15 o 16 anni. Ma dove si è fermato lei? Al Colosseo? Ma che 15 o 16 anni? Ma che vecchio, rincoglionito che lei. Ma non ha mai rinnegato di aver scritto sulla vita. Lei è un vecchio bacucco. Io ho un quadro meraviglioso che mi è stato regalato tantissimi anni fa. Ho dei quadri favolosi con la sua faccia bellissima, non certamente come la sua. Sicuramente era più bello di te. Gli occhi meravigliosi di Almirante, lei se li sogna. Sicuramente era più bello di te, Parenzo. Sicuramente era più bello di te. Io un attimo, sicuramente non ho mai fatto parte della Repubblica Sociale Italiana. Ma lei è proprio uno shock. Ma lei non fa parte di nessuna parte, perché non la vedono, non la vedono, non la concepiscono che lei ci sia. Beh, la gente non pensa che lei ci sia. Lei non è mai nato. Come aperitivo, il parte è cominciato tra le zanzare e i fossi. Saremo tutti nudi, tutti rosa. L'antifascismo, allora, non invecchia, oh partigiano, portami via, che bella fastidio, ciao, guarda. Bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, la la la la la la la la la la la. Canti la, con la, noi, donna Assunta. Vedi che io so pure la canzone. Bene, oh partigiano, portalo via. Portalo via, portalo via Parenzo. Dove lo mandiamo questo signore che è rimasto fermo? A Ventotene, mandiamolo a Ventotene. Mandiamolo a Ventotene. Come era della tradizione, Eli. Mandiamolo al confino a Ventotene, dai, su, mandiamolo. Ma non lo vogliono, non lo vogliono. Questa cosa del busto ti dà fastidio, non so perché ti dà fastidio questa cosa del busto. No, del... che lei ha il busto. Ma perché no, lei c'ha un busto? No, perché ma il busto fa fastidio. Il busto, porta il busto lei come le donne. Se l'è rubato, se l'è rubata, se l'è rubato lui il busto dell'ammirante Parenzo. No, dovrebbe avere un palazzo per poterselo rubare. Dove lo mettono un busto di un metro e mezzo, scusi tanto, eh. Guardi, è l'ultima cosa che io manco se muoio lo voglio. Proprio è l'ultima cosa che voglio. Esagerà. Ma nessuno pensa di darglielo, eh? No, ma io non si deve preoccupare di averlo. Lei si deve preoccupare che nessuno pensa a lei di darglielo. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Migranti muoiono asfissiati in un barcone che ne porta quasi 600. I sindaci, non c'è più posto nemmeno per i morti. L'UE pensa ad un commissario ad hoc. Renzi prepara l'intervento per l'avvio del semestre italiano di presidenza dell'Unione. Si profila una crescita inferiore alle previsioni nel secondo trimestre dell'anno. Primo voto in commissione sulle nuove funzioni del Senato. Forza Italia e Lega votano con la maggioranza. I 5 Stelle chiedono al Premier un nuovo incontro. E sulla riforma in discussione un sondaggio del TG3, le risposte del nostro campione anche su immunità, responsabilità dei magistrati e unioni civili. Debutta tra le polemiche il bancomat obbligatorio, costi troppo alti, dicono commercianti, artigiani e professionisti, ma non ci sono sanzioni, ribattono i consumatori. I jihadisti sunniti proclamano un califfato a cavallo tra Iraq e Siria, miliziani definiti sanguinari persino da Al-Qaeda adesso puntano su Baghdad. Primo scontro in federazione dopo il fallimento del Mondiale Azzurro. Niente accordo sul dopo Prandelli. Il nuovo CT sarà scelto ad agosto dal successore di Abete. Eccoci qui la Zanzara 800240024. Battaglia subito Giacomo Torino. Buonasera Giacomo. Sì, ciao Cruciani e ciao Parenzo. Dimmi. Ascolta Cruciani, ciao, io ho bisogno che tu mi dia una mano un secondo per fare un appello alla gente che ci ascolta. Allora io mi chiamo Giacomo. Adesso vediamo. Sì. Comunque, no, vabbè. Dico, allora io sono gay, sono omosessuale dichiarato da qualcosa come 14 anni, ne ho 30, ecco. Allora, ma tu prima di essere stato gay, cioè prima di essere se andavi con le donne, eri etero, che succedeva? Mi hanno sempre fatto schifo, ti devo dire la verità. Le guarda, donne ti hanno sempre fatto... No, a livello sessuale, attenzione. Ma non sei mai stato con una donna? No, sì, sei stato con una donna. Ci ho provato, ma sinceramente mi faceva abbastanza schifo. Cioè non ce l'hai fatta? Delle parti intime. No, mi veniva da vomitare, ti dico la verità. Cioè guarda, non ti si drizzava nemmeno, non ho capito. No, non hai capito, veramente mi veniva la nausea, non ti prendo in giro, Cruciani. Ma veramente stai dicendo? Cioè tu andavi con le donne e ti veniva la nausea? Te lo posso giurare su quello che vuoi. Cruciani, guarda, non devi giurare. Non ho modo di dirti cavolate perché è una. Ma questa quanti anni l'hai capito che ti faceva vomitare? Allora, capito a 14 anni, poi ci ho provato fino ai 17 con le donne, poi dopo ho visto che niente, non c'era niente da fare. Niente, ti piacevano gli uomini, eccetera, dai. Sì, però Cruciani, bisogna smettere un attimino. Io dico sul luogo comune che tutti i froci sono quelli dei Pride, mi sono rotto i coglioni. Ma chi l'ha detto? Ma nessuno lo dice. Perché questo. Io quando vado in giro, la gente, fidati, se io dico sono gay, io chiamo da Torino, c'è stato Pride sabato scorso. Quando tu vai a dire in giro io sono gay, la gente pensa subito ai carri, pensa subito. Ma a non questo. È vero. No, dai. Qui è vero, te lo posso garantire, a Torino è verissimo. Ma cos'è che non ti piace? La gente che va fuori con i culi di fuori, le piume. Non sono quelle. Allora, ha ragione Taormina quando dice che tanti gay sono malati, perché non è quello l'essere gay. Io sono gay nel senso che sono maschio, mi piace il cazzo, punto. Non c'è un'altra cosa. e mi vesto da uomo, mi concio da uomo, parlo da uomo, faccio le robe da uomo. Ma sì, ma certo, ma la maggior parte delle persone che conosco omosessuali sono così, sì, poi ce ne sono alcuni fortuna, più effeminati, altri meno, quelli che portano, certo, quelli che si truccano, quelli che si travestono, ce ne sono, sì, altri, ma come nell'eterosessualità, l'eterosessualità ha un sacco di, come dire, un sacco di variabili, no, anche l'eterosessualità. Quei carri, è normale che poi c'è gente come che dice che è schifo, perché è normale, perché fanno schifo anche a me che sono fraccio come loro. Vabbè, ma lei fanno schifo i carri come agli eterosessuali fanno schifo, magari fa schifo un certo tipo di eterosessualità. Cioè, no, ecco, ma cosa ci trova? Una malattia, ecco, non è una malattia. Cosa ecco, ci trova di schifoso nei carri? Non ho capito. No, non ci trovo niente, no, Cucciani, forse mi sono espresso male. Che è una roba superata, schifoso. È una roba finita, sì, superata. Perché io dico, ma l'orgoglio di cosa? Io l'orgoglio di essere gay ce l'ho tutti. Quando do un bacio al mio ragazzo, anche se sono Shan, è quello il vero orgoglio gay, non è nascondersi all'interno di una parata che poi il 90% di quelle persone tornate a casa fanno dietro e magari hanno anche la moglie. No, io se voglio dare un bacio al mio ragazzo lo do a Shan e non me ne frega niente di avere gay pride. Vabbè, infatti i gay pride sono fatti per arrivare a quello che lei vuole, cioè dire potersi baciare, in teoria non l'obiettivo. Si può fare, Cruciani, nessuno. Ma lo so, guardi, l'altro giorno al Gay Village ho detto una cosa molto semplice: amatevi, baciatevi in pubblico, è troppo facile baciarsi, esatto, nei locali esatto, o durante i Gay Pride. Andate in mezzo alle gente, in mezzo alle vedi famiglie, adoro, in mezzo ai bambini, adoro, in mezzo Cruciani, ai bambini, baciatevi in mezzo ai bambini, amici omosessuali, donne, uomini, baciatevi in mezzo ai bambini. Poi sarà, detto, ma è così che bisogna fare. Poi ci sarà qualcuno che spiegherà a un bambino cosa vuol dire. Io una volta mia figlia mi ha chiesto: papà, perché ci sono quei due che si tengono mano nella mano? Perché qui sono quei due uno accanto all'altro? Io gli ho detto: perché si vogliono bene, punto. E poi tutti i discorsi sono finiti, morti, vecchi, dai. Comunque, su, posso dirti una cosa, Cruciani, ultimissima. Adesso mi ammazzeranno per quello che ho detto, ma è così, ho spiegato, si vogliono bene, ma si possono volere bene due uomini? Sì, certo, si possono volere bene. Non è che diventa lesbica per forza, cioè, non è che dopo un discorso del genere. Non siamo contagiosi, assolutamente. Dai, no, su Parenzo, perché stai garantire zitto? Mi sta sul cazzo che sta zitto stasera. Perché ma stai, no, zitto? Perché sennò mi dici che mi sovrappongo. Non, ah, dimmi, senti, dimmi, rispondi a questo ascoltatore, allora, Giacomo, che si vuole baciare, si bacia forse da Ocean, che è insomma nei supermercati. No, guarda, mi trovo qui tra gli artisti, voglio dire, qui evviva l'omosessualità. Dovrebbero dire Berlusconi, dovrebbe dire viva Berlusconi ma adesso. Con naturalezza, con passione, con gioia, è vita, è amore. Viva i frasi! Viva i frasi! Le zanzare, yeah, fanno male. Allora, ha ragione Taormina quando dice che tanti gay sono malati, perché non è quello l'essere gay. Io sono gay nel senso che sono maschio, mi piace il cazzo, punto. Allora, alle 19.30 è arrivata questa dichiarazione da parte di un ascoltatore in piena, come dire, in piena fascia oraria protetta, come dire, no? Vabbè, però, caro Parenzo, ci sono altre questioni nel mondo oggi, in Italia, in particolare questa questione dei 30 euro del pagamento. Io però stasera vorrei provare a passarti il comandante. È il comandante, ma il comandante chi? Intanto ti posso passare un'altra cosa. Sta arrivando il signor Materazzi, sì, e sì, tra poco sarà qui probabilmente ai nostri microfoni. Intanto ti posso passare una persona che è molto vicina al signor no, Masco. No, però aspetta un attimo, ti posso dire una cosa? Te la passo un secondo, perché è molto vicino al signor Masco e noi stiamo facendo questa diretta. Sì. Grazie ai sì, mezzi. Però, amico mio, mi fai lavorare? Aspetta un attimo. Mi fai lavorare un attimo? Nel sotto. Oh, il sottocomandante, buonasera, come state? Come sta? Il comandante è in forma per questa sera, innanzitutto, questo è fondamentale perché questa sera c'è un grande concerto a Roma. Informissima. Mi raccomando, perché terzo concerto stasera, terzo concerto in tre giorni? In tre giorni, certo. Ma ce la fa ancora il comandante a sopportare il peso di questi? No, ma glielo dico mica perché non ho fiducia nelle sue capacità, semplicemente perché insomma gli anni passano, no? Passano per tutti, anche per i comandanti. Evidentemente per lui no, passano. Però lui ce la fa sempre. Ce la fa sempre, vabbè. Sì, sì. A presto. Ciao. Allora, i commercianti, però, gli artigiani, forse anche i cittadini si domandano delle cose, perché qui c'è un comizio di Giovanardi, sì, perché bisogna per forza pagare con il bancomat per prestazioni superiori ai 30 euro? Questa è la domanda fondamentale, no? A parte che è la solita cosa all'italiana, per cui non ci sono sanzioni, non ci sono sanzioni previste, cioè tu devi chiedere se uno ha il posto o no, ti puoi rifiutare di pagare, ma in realtà non ci sono sanzioni su questa roba qua, cioè è la solita cosa all'italiana. Allora, o se ci credi metti le sanzioni. Chi non si dota di un POS, di un bancomat, anche per prestazioni sopra i 30 euro, riceve una sanzione. Voi credete, siamo. Allora, Flavia da Bergamo, Flavia. Buonasera. Dimmi. Guardi, la mia è un po' una telefonata di protesta, nel senso che io sono stanca di ascoltare le dichiarazioni di Toscani e di Crepè. Sì. Perché, tutto sommato, visto che si parla sempre di rispetto, sempre e comunque di chiunque, mi sembra che i due signori rispetto non conoscano. Vabbè, lei si è sentito offesa da cristiana, da cattolica? Sì, direi proprio di sì, e come me tantissime altre persone, scusi. Non trovo molto corretto che si esprimano in questi termini, per quanto uno possa essere ateo o non credente, liberissimo, io non contesto niente però... sotto questo profilo, però che avessero rispetto per chi invece sta dall'altra parte. Cioè a lei le dichiarazioni sul crocefisso, su cosa significa il crocefisso, il simbolo, ma addirittura sadomaso, come dice Toscani, o addirittura un simbolo che provoca orrore, dunque bisogna sostituirlo con Bambino Gesù che ride. Che no, non esiste, il fatto stesso che il dottor Crepè si qualifichi come appunto ateo non credente eccetera e poi dice ma sì sostituiamolo con, allora se non conosce, se non sa, non esprima questi giudizi, questi pareri, perché secondo me dovrebbe essere una persona intelligente, ma dimostra di non esserlo quando se ne esce con queste frasi. Ho capito, grazie. Armando Palermo, buonasera. Armando? Oh, buonasera a voi, sì sono qua. Dimmi. Ascolta, prima di tutto è la quarta volta che mi tenete mezz'ora in linea prima di intervenire. Armando, ma lei come è collegato? Dal satellite, dall'astronave? Come è collegato? Anche la vostra redazione ha detto. Vabbè, Diego, provincia di Brindisi, non la sento, Armando, non è che possiamo fare il collegamento come se fosse un'astronave, come se lei fosse Parenzo. Diego, provincia di Brindisi, dai. Buonasera, Cruciani, Diego da Brindisi, facciamo di Brindisi. Dimmi. Senta, io sto intervenendo per quanto riguarda il discorso del crocifisso, appunto. Io ho sentito l'altro giorno la trasmissione e mi sembra che il giudizio sia massimalista e un po' anche progressista. Io non sono un... Non ho capito, scusi. Sì, dicevo che il giudizio è massimalista, è proprio progressista. Io non sono un cattolico praticante. Allora? Sono benissimo, niente. Io credo che sia un fatto culturale voler togliere questi crocifissi. Vede, la nostra storia, le campane, il crocifisso, le polpette, la banda, sono i nostri simboli. Se viene giù, sente le nostre campane suonare, è la nostra storia. Le polpette, l'odore può dare fastidio a qualcuno, però è la nostra storia. La banda è la nostra storia anche. Il crocifisso è la nostra storia, è un fatto culturale prima di tutto. Guardi, a me che ci sia o non ci sia il crocifisso non me ne frega assolutamente nulla, non mi ha mai fatto nessun effetto, eccetera. Che uno decida di imporlo, mi sembra una stupidaggine, come sta accadendo a Padova, capito? Per cui togliere il crocifisso. Qui non si tratta di togliere il crocifisso, qui si tratta di qualcuno che lo vuole imporre in un'aula pubblica, in una scuola, eccetera. Imporlo in ogni ufficio pubblico. Questo mi sembra. Poi tra l'altro chi paga per questi crocifissi? Ci sarà qualcuno che paga? Il comune, dice Bitonci, che paga. Beh, sbagliato secondo me. Parenzo, che succede col comandante là? Ma certo. Comandante, allora, se vuoi adesso col cordless provo a spostarmi attraverso la cosa del comandante. Materazzi, in diretta alla Zanzara, il signor Materazzi, dov'è il signor Materazzi? Eccolo qua, signor Materazzi. E Alberto Rocchetti. Chi è? Che sta succedendo? Intanto fammi sentire Emilio dalla provincia. Adesso vi faccio pensare. Aspetta. Cruciani, signor Materazzi? Ha guardato, gli viene da vomitare? No, ma che gli viene da vomitare? Assolutamente. Allora, Figuriamoci se gli viene da vomitare, ma che stai dicendo? Sei impazzito? No, adesso, eccolo, aspetta, che voglio che si senta benissimo. È qui il signor Vasco, è qui anche il signor Vasco, signor Rossi, cercavo il signor Rossi, scusi. Questo lo passo. Mamma mia, Parenzo che cerca Vasco Rossi. Rossi cercavo. Vabbè. Emilio, provincia di Como, dai, in attesa di queste peripezie di Parenzo al concerto di Vasco Rossi, che è quasi una contraddizione in termini. Emilio dalla provincia di Como, ve lo vedete voi Parenzo che balla, suona, fa l'inferno là al concerto di Vasco Rossi, tutto sudato. Emilio, provincia di Como. Sì, sono io. Pronto? Vada, però non ci faccia cadere quello che sa. Non faccio perdere tempo, vorrei intervenire su quello che diceva il professor Taormina, le stupidaggini che mi permettono di dire, che diceva il professor Taormina. Sulla questione dei gay, cioè io sono gay, che potrei ricordare che era Pierpaolo Pasolini, che ha dato di più all'umanità di quanto il professor Taormina non riusciva. Vabbè, senta, non si sente niente. Andrea da Milano, dai, forza, veloci. Pronto? Sì, Andrea, dimmi. Sì, buongiorno. No, semplicemente sulla questione che diceva prima con il professore, io penso che bisognerebbe anche trovare un momento, un attimo di minor contrasto su questa questione adesso delle unioni sessuali. Ma guardi, che non l'abbiamo reintrodotto noi questo argomento, sono usciti i feltri, la Pascale si vogliono iscrivere all'Arcigay, Berlusconi ha detto di essere favorevole, poi adesso dentro Forza Italia sta succedendo un po' di casino. Che c'è, Parenzo, che c'è? David? Pronto? Chi c'è? Marco Materazzi, ciao Marco, sì, come stai? Sono io, ciao. Come stai? Bene, voi? Bene, non c'è male. Allora, sei al concerto di Vasco Rossi pure te? Sì, per forza. Per forza, nel senso che è un mito per te, Vasco, no? Non potevo mancare, un mito è un amico. È un idolo. Senti una cosa, ma secondo te chi deve essere il prossimo allenatore della Nazionale? Tu speri che sia Mancini? Ah, io non lo posso sapere chi è il prossimo allenatore. Quello che speri tu. Dovete quello che speri voi. No, noi non contiamo niente. Io metterei Vasco. No, è Vasco, sì. Qualcuno di Vasco allenatore nazionale sarebbe certo sarebbe male, peggio di questo non si può fare. No, certo. Peggio di quello che abbiamo fatto non si può fare mettere Vasco. Però senti, ma che ne so, Berlusconi, adesso non c'è niente da fare Berlusconi, sarebbe eccezionale Berlusconi. Si intende di calcio e tutto, perché no? Come 4-3-3. Sicuro. Senti, però dimmi la tua, Mancini ha qualche possibilità o no? Ma secondo me sì. Dipende anche da quello che vuole fare lui, perché è un allenatore di carattere mondiale, dovrebbe essere lui anche a decidere, dovrebbe essere sicuramente stimolato. Ma vuole secondo te? Sì, se lo chiamano dice di sì. Chiamate lui. Vabbè, lo so, dai, Marco, dai, ma il tuo allenatore ideale in questo momento per la Nazionale, tu che sei stato campione del mondo. Non è italiano. Perché non è italiano? Perché Mourinho, no scherzo. No, Mourinho però, hai visto io mai. Io penso che Conte potrebbe essere anche il giusto per la Nazionale. Ma adesso lo dici per scherzo, dai, su. No, non scherzo. Veramente? Io. Assolutamente sì. Il tuo allenatore in questo momento è Ancelotti? Sì. Anche, mi piace anche Ancelotti. E Mancini dove lo metti, oh? Fate voi. Decide voi. Io vi dico quello che penso. Senti Marco, ma tu quando senti le canzoni di Vasco Rossi che fai, godi? Bene. Stai bene? Hai mai fatto l'amore con le canzoni di Vasco Rossi? Per non dire no. Trombare, insomma. Mai? No. Male però, perché? Tanto me lo direi. ciao, a presto. Ciao, ragazzi. Ragazzi, secondo Salvini, Renzi e Alfano hanno le camicie, i vestiti, le giacche sporche di sangue per i morti nel Mediterraneo. 30 oggi o giù di lì. Renzi si sta svegliando su questo. Berini, vi chiedete che cosa intende fare? Pensate di poterne accogliere 5.000 al giorno con 30 morti ogni tanto, peraltro? Vabbè, mi sembra veramente assurdo, mi sembra una schifezza. Qualcuno ha le giacche sporche di sangue. Parenzo, hai da ridire su quello che ha detto, su quello che dice Salvini? Beh, Salvini si deve vergognare per quello che dice. Perché? Salvini, ma come perché? Perché tu legittimi, cioè tu, ho capito che tu ormai non ti indigni più di nulla ormai. Sì. Ma di fronte a 30, qui sono serio, anche sono al concerto di Vasco Rossi, vabbè, ma cerchiamo di essere seri su una tragedia. 30 persone morte, e questo signore eurodeputato con in tasca 12.000 euro al mese, seduto in uno studio televisivo. Sì. parla di giacche, di mani sporche di sangue, perché questo ha detto, anziché proporre, ed è contro l'operazione Mare Nostrum, cioè il recupero. Anch'io sono contro l'operazione Mare Nostrum. In altri paesi, sai che succede? Mi ha scritto oggi un ascoltatore e mi ha fatto notare che in Australia, un paese che ha delle coste immense, peraltro molto più grandi rispetto in Australia, a quelle. Ma di in Australia? No, aspetta, in Australia, sai che cosa fanno? Prendono i signori che arrivano e non è che li portano da noi, li riportano da dove sono arrivati, li riportano indietro. Cioè non... ma è così che si fa, è così che si fa. Io direi che in una giornata come questa, in cui ci sono 30 morti. Ma quello non c'entra niente, i morti sono morti, che c'entra? I morti mica sono. Mica sto dicendo, no, ma i morti sono morti, nel senso che non è che bisogna. Ma che devo fare? Devo piangere? Devo piangere? Vuoi che ti ripeta quello che ho sempre detto? Che chi parte per questi viaggi sa cosa va incontro? Stai dicendo una cosa cattiva. Io non sto dicendo una cosa cattiva. Cattiva. No, a me mi stringe il cuore, mi si stringe il cuore per la morte di alcune persone in mare. Però io devo dire la verità: quelli che si imbarcano su questi barconi, ho capito, ma sanno che cosa vanno incontro. Ormai lo sanno, l'informazione viaggia. Cattive, ma non molto. Dico cose cattive, dico cose. E quell'altro è invece Salvini, è un imprenditore della paura. Ma perché no, ma con, dai, questa, con questa cosa che continuano a creare dei migranti che guarda come è andata a finire: 30 persone morte, hanno il coraggio di dire. Sì, che addirittura l'operazione Mare Nostrum non va fatta. Ma anche secondo me non va fatta. Cosa ci sarebbe in quel mare se non ci fosse l'operazione Mare Nostrum? Ma non c'entra né cosa ci sarebbe. Ci sarebbe quello che c'è quando uno sarebbe quando ci sono dei banditi che portano delle persone dall'altra parte. Molti più. Ma quelle persone sanno che fanno un viaggio drammatico, che forse non arriveranno vive. Certo che lo sanno. Quelle persone lo sanno, certo. Siccome lo sanno. Rischiano la morte. E tu pensa di sanno cosa rischiano. Tu pensi al livello di disperazione delle persone che cosa arriva? Ma non c'entra niente il livello di disperazione. Il livello di disperazione ci sarà sempre, accettalo. Sempre il livello di disperazione. Non esiste il mondo ideale di voi di sinistra, il mondo ideale in cui non esiste più la disperazione. La disperazione ci sarà sempre. Fatene una ragione, la disperazione ci sarà sempre. Con noi Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Come andiamo? Io bene. Bene? Io bene. Che dice di questa cosa di Mare Nostrum? Chi ha ragione, io oppure Parenzo? Nessuno dei due? Non mi dica nessuno dei due. Mi pare nessuno dei due. Dai. Che no, ma io glielo spiego perché. Perché Mare Nostrum si è rivelato un grande errore in quanto essendo a conoscenza che li venivano a pigliare in mare, si sono buttati in tutti i modi e quindi i morti sono aumentati perché sì. Il viaggio è diventato quasi un pro forma per farsi caricare dalle navi italiane lì di guardia, quindi è stato un errore perché ha aumentato, naturalmente non era questo l'effetto desiderato, ma questo è stato poi l'effetto. Sì. L'altra questione molto grave è che Parenzo fa come quei preti che andavano dietro gli spagnoli e i portoghesi durante l'invasione dell'America del Sud, cioè? e prendevano gli indios, li battezzavano, quindi li salvavano e poi li ammazzavano, così andavano in paradiso, erano sicuri. E così fa lui, no? Cioè lui vorrebbe tutta questa gente buona, brava, che non rischia, che non muore e che noi siamo lì a battezzarli, poi tanto a ammazzarli ci pensa lui. Sì, no. Non c'è pietà reale, c'è una pietà un po' stereotipata, perché il problema è molto, molto, molto più complesso. No, ma questo non c'è dubbio, però scusi Bianconi, la realtà è anche molto semplice. Se noi continuiamo a prendere questi barconi e a lanciare, adesso in questo caso ci sono 30 morti, ma questa è un'altra questione, a prendere questi barconi, a lanciare il messaggio, no, se voi mi mettete in mare sicuramente ci sarà qualcuno. Di cinici. Sto dicendo questo, cioè dico l'operazione Mare Nostrum, magari nata con intenti nobili, ha fatto sì che quelli che si imbarcavano, o meglio, quei criminali che li imbarcavano, gli hanno detto che era un pro forma, perché tanto c'erano gli italiani che li raccoglievano. Certo. E quindi hanno aumentato non solo il numero di quelli che vanno, ma il numero di quelli che muoiono. Quindi si è rivelata un errore per quell'eccesso di bontà che è uguale a quelli, no, appunto, che facevano ammazzare gli indios dopo averli battezzati, se non tornavano a peccare. Bianconi, amico mio, non c'è nessun eccesso di bontà, c'è la lucida realtà che ti dice, caro il mio amico Bianconi, caro il mio amico Bianconi, che se uno è disperato non lo fermerà il mare, non lo fermerà così, il viaggio. Non, sta, no, non bisogna, capito, giocare, palestro, scusami, sulla disperazione dei singoli, cioè, avete un livello di le situazioni sono drammatiche. L'invasione del sud verso il nord è epocale, vabbè. Viene drammatizzata, non la da molte la disperazione. Viene non drammatizzata, scusami, fammi finire, ma scusa, da molte, da molte responsabilità che partono non da lontanissimo. Guarda, chi ha pensato di bombardare la Libia e fare la cosiddetta primavera lì ha responsabilità. Chi non impone all'Europa un diverso comportamento ha responsabilità. Vabbè, però al di là di questo, c'è tutta una e poi c'è una grande responsabilità che tutti fanno finta di non vedere. Cioè? È nell'interesse di certo, uso questa parola ma la voglio usare in termini corretti, di certo capitalismo, di certa roba, avere grandi masse di gente che arriva disperata. Perché? Per pagarli 3 euro l'ora e per rovinare naturalmente tutto quello che sono le economie che vanno su altre addirittura cose. Bianconi contro, sì, contro un certo capitalismo. Certo, quando lei Crociani si renderà conto che non c'è un complotto ma c'è un lucido disegno. E quando lucido disegno capirà, di chi? C'è un lucido, certo, cioè, c'è un l'immigrazione disegno clandestina è frutto di un lucido disegno di qualcuno? E anche questo fa parte. Ecco, scusi, ma chi? Le multinazionali? Ma quando Lincoln liberò gli schiavi, che pensa, che lo fece per bontà d'animo o perché gli stati del nord avevano bisogno degli operai? E dunque in questo caso i burattinai chi sono? In questo caso? Capitali. Le banche, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'America, che ha voluto tutto il casino nel Medio Oriente, che ha destabilizzato l'Africa. Cioè le banche, le grandi banche hanno interesse all'arrivo di frotte di immigrati. La politica occidentale industriale e finanziaria è derivata dalle grandi banche. Gli risponde Obama, gli risponde la Merkel, gli risponde lei, gli rispondo io, si risponde tutti. Quindi nel momento nel quale si fa la scelta di piazzare nel mercato europeo grandissima massa di mano d'opera a pochissimo che prezzo. Ne so, gli conviene pure perché a Squinzi. Perché questa è la conseguenza. Gli conviene pure a Squinzi magari. Conviene parzialmente a Squinzi, perché questo non riguarda quel tipo di economia. Questo tende a distruggere l'economia medio piccola e assicurare all'economia del nord invece operai per le loro il parti. Grande complotto per l'invasione. Non è un complotto, è un lucido disegno. Vabbè, uguale. È un complotto. Tutto questo profilo. Ma perché un coglione? Che c'è? Complotto e lucidi disegni è uguale, no? Lei è un complottista, non c'è un complotto, ci sono dichiarazioni chiare, fatte, dette, dichiarate, c'è un lucido disegno. Un lucido il disegno. Il lucido disegno passa anche da questo. Ma guardi che i lucidi disegni sono frutto di un complotto qualche volta, di una trama. Ma non c'è niente di segreto. Ah, secondo lei è tutto buio, cioè, la grande invasione degli immigrati è frutto di un lucido disegno di multinazionali, banche, Bilderberg, che ne so. Strategiche per mosse tattiche. E bisogna anche un po' uscire, mi scusi. Beh, ma facciamo sempre i nomi, faccia tre nomi. Dallo spot dell'informazione che fa un po' di impressione. È chiaro che c'è un lucido disegno. Ma i burattinai chi sono? Quando lei vada, non c'è mica da andare, pigli un libro qualsiasi. Mi faccia due o tre nomi di persone che vogliono questa lucidamente, progettano lucidamente. La Merkel è uno sicuramente. Cioè la Merkel vuole la grande invasione. Certo, infatti non la gestisce. Perché se non la volesse la gestirebbe. E Juncker? Se fosse nell'interesse della Germania la gestirebbe. Non la gestisce. E che interesse ha? Tutta nel corpo a noi. Che interesse ha la Merkel? Perché più ne muove, più destabilizza le economie che la ricevono e più lei potrà avere mano d'opera a poco prezzo. Ecco, come fa a manipolarla questa grande invasione? Con gli agenti segreti? Con che cosa? No, basta non gestirla. Vengono, questi vengono. Ci hanno già pensato i bombardieri voluti da Napolitano a fare quello che è successo. I bombardieri quelli in Libia? Sì, esatto. Cioè dunque Napolitano è parte di questo lucido disegno. È sempre stato, io l'ho sempre detto questo. Cioè il lucido disegno per l'immigrazione. No, il napoletano fa parte di questo sistema, il napoletano che ha disassato alcune situazioni, secondo me, l'ho sempre detto, è il piano organico del sistema di destrutturazione della democrazia italiana. Piano è una parte organica nel piano di destrutturazione della democrazia italiana. Parenzo, che ne dici? È una roba da manicomio oppure no, reale? No, non girate la sirena perché io questo l'ho scritto. No, che sirena? Mettiamo nessuna sirena, sto chiedendo a Parenzo se è da sirena o no, poi magari la chiamiamo la sirena. Che sta... no, ma che stai dire? Parenzo, anche, che stai al cesso? Ma se vuole glielo spiego, No, vabbè, guardi che è già chiaro come lei ha detto, non è che sia oscuro, Parenzo, che stai al cesso, stai? Stavo al cesso, Parenzo, veramente una cosa indegna. Stavo al bagno perché non potevo sentire, cioè, il complotto demo pluto, ma di che stiamo parlando? Ma scusami. Ma Bianconi è stato nella destra, ma le persone hanno sempre migrato verso dove c'era il denaro. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma fino se c'è un lucido disegno, non lo chiamare complotto, se no si incazza e ti dà del coglione. Se c'è un lucido disegno, cioè, secondo Bianconi c'è un lucido disegno, la Merkel, Napolitano, le grandi banche, altri paesi che vogliono la grande invasione per fottere noi, per fottere gli altri. Non è sgradita. Un attimo solo, fermiamoci, 800 24 00 24, la Zanzara, poi parliamo di Froci però, Bianconi, se no mi deprimo, se non parliamo di Froci mi deprimo. Voi della Zanzara, incominciate a essere rincoglioniti, Guardi, non mi ci frega più, non mi ci frega. Sei ancora a casa, Emo? Mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Pronto? Pronto? La matriosca è laica. Pronto? Sì? E il conduttore? Sì, certo che sono il conduttore, se no chi sono? Ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere... Bianconi, ma chi comanda ormai la Pascale dentro Forza Italia? Cioè, la Pascale fa una dichiarazione sui gay, costringe, tra virgolette, Feltri a iscriversi all'arcigay insieme a lei, e poi Berlusconi dice apre al mondo omosessuale, al di là di quella che è la sua posizione sugli omosessuali, sui gay, tanto tutti quanti dicono... Tutti dicono la stessa cosa, dicono sì. Io non lo so chi comanda in Forza Italia, ritengo che comandi il presidente Berlusconi. Se poi da Pascale, che gli sta vicino, gli ha dato una buona idea e che se la prendesse una volta tanto non sarebbe neanche male, capito? Cioè, voglio dire, le buone idee di chiunque provengano, per l'appunto è venuta la Pascale che gli sta vicino e che sembra tutt'altro che sprovveduta. Per cui è una buona idea, ma non so se è vero che è stata lei. Noi abbiamo già parlato di questo una volta. Sì, ma è una buona idea, dunque. No, però è successo qualcos'altro. Sì, è un'ottima idea. Io sono convinto che la famiglia costituzionale è una cosa e vada tutelata come famiglia costituzionale. Però ci sono altre realtà sociali che vanno ugualmente tenute di conto, anche perché una società funziona se le sue cellule funzionano. E se ci sono delle unioni civili, sia per affetto, sia per sesso, sia per amicizia, ma ci sono delle unioni, cioè dei nuclei che funzionano, secondo me hanno diritto a tutte le tutele. Se uno facesse un progetto di legge in cui praticamente senza chiamare la famiglia equipara tutto, stessi diritti, stesse cose, per lei andrebbe bene? Cioè, come vuole fare Renzi? Sono diritti costituzionali, sa, non è che sono diritti costituzionali, non è che se no, cioè, sono diritti costituzionali che se le mettono tutte in legge forse si chiarisce. Ma perché la Pascale ci sono problemi sul diritto, che ne so io, e ci sono problemi sul diritto di successione, e si potrebbe parificarlo al diritto parentale e sulla successione nei contratti di locazione. Comunque lei dice viva la Pascale, sulla reversibilità della pensione, cioè c'è tutta una realtà, specialmente in un mondo come questo che si atomizza sempre di più. Se trova gente che sta insieme, secondo me non è male per niente. Per cui viva la Pascale da questo punto di vista. Ma certo, ma io non è che mi ho mai detto abbasso, non dico, non la conosco, quindi non posso dire né viva né. Se è vero che quello che dice lei e io non lo so, viva la Pascale, certo. No, è vero. Ma guardi, io volevo anche dirle che perché non si iscrive pure lei all'Arcigay? C'è un certo mondo conservatore di classi dirigenti che non ha mai imparato la lezione. Quando nel 1974 o 75, non ricordo l'anno, tutti gridavano no al divorzio, Preti, Fanfani, Movimento Sociale, tutti scatenati, ma furono le donne siciliane che dissero sì al divorzio. Cioè, la gente anche nei paesi più conservatori è molto più avanti della sua classe dirigente. Ma per anni il suo partito, Bianconi, Quale è il mio partito? Forza Italia. Non è più il suo partito. Io vengo dall'Alleanza Nazionale. Beh, figuriamoci. Forza Italia, che mi ci hanno deportato adesso. Però, no, io Forza Italia. Mica c'è la deportazione obbligatoria. E nell'Alleanza Nazionale io ho sempre detto questa cosa qui. Non è che non l'ho ho capito, ma non era un partito favorevole a quelle cose no, lì. No, ma c'era gente che poteva dire quel che dicevo io. Gaspari oggi fa tutti i tweet e dice che è contrario. Io sono sempre stato favorevole. La Russia è contrario. La Russia è contrario. Anche il mio amico Massimo Corso, siamo amici fratelli. Appunto. E probabilmente anche il mio amico Pietro Lanfranco, siamo sempre tutti quelli dell'Alleanza Nazionale, tutti no, non è novero, tutti, quasi no? Tutti, vabbè, no, ho capito, ma quasi tutti. Ma poi una mosca bianca, io l'ho sempre pensato. Ma mica poi l'hanno deportata in Forza Italia, mica era obbligatorio. No, dico sempre questa battuta per dire l'hanno deportata, nel senso che io. Ma poi Forza Italia esiste ancora? Esiste ancora Forza Italia? Il simbolo c'era, sede anche il partito, il presidente, ma esiste, perché non deve. Il resto? Bah. Il resto lo organizzeranno. Secondo me manca un po' a tutti l'idea di partito e anche in Forza Italia giustamente c'è un po' di incertezza come c'è in tutti gli altri partiti. Parenzo, sai che Bianconi sì che ti rendi conto che ti svegli la mattina, ti addormenti la sera che sei eterosessuale e ti svegli la mattina che ti scopri che c'è il partito che è pro gay. La sintesi di tutta sta roba qua è straordinaria, è questa, perché tu sei andato a dormire. Ma non è vero, perché questo non è vero. In Forza Italia, non in Alleanza per la Scissione questa volta, ci sono stati tanti che hanno già detto quello che ho detto io. I nomi non me li ricordo, sono sincero. No, ma è il metodo, ma ci sono stati già tanti. Ma stavate con la Chiesa, stavate con le parti più conservatrici della Chiesa. Lei no, ma voi il partito, no. Dai, su, no, i Family Day, i Vescovi, Gianni Letta, i Family Day. Vede Cociari, lei si bianca, si mette d'accordo con se stesso. Come con se stesso? Se telefona a me, gli risponde Maurizio Bianconi. Se telefona a Forza Italia, vabbè, ho capito, ma lei che è esponente di chi? Se telefona alla Pascale, gli fa pronto Pascale. Se telefona a Berlusconi, c'è pronto Berlusconi. Ma no, ma io c'è. Sono Maurizio Bianconi, uomo di destra e poi di centrodestra, che ha sempre pensato così, che ha avuto, non so se per 10 o 12 anni, la testa del Partito Radicale, che ha sempre pensato queste cose. Critico a morte un almirante per via del divorzio, sette fuori della politica 5 anni per questo motivo. Sono no laico, sono super laico. No, ho capito, però il suo. Parli con me, rispondo delle mie. Ma no, ma infatti io apprezzo quello che lei dice. Recentemente pagato, ma sono le mie idee. Senta, lei ha scritto della Fornero, dovrebbe essere condannato a una pena detentiva? Com'è? Credo io. Come? Cioè, lei ha detto che gli hanno rifiutato 100.000 euro di pensione, sì. Sì, ho fatto anche un'interrogazione, l'ho depositata oggi. Che è successo? Perché gliel'ha detta questa cosa, perché se due luna o ci pigliano giro la Fornero o ci pigliano giro tutti quell'altri, perché non esiste, io non l'ho mai saputo che ci fosse una pensione. La pensione da ministro, da ministro. Ma non lo mai, però se lo sapeva lei, va bene. E poi secondo me per i danni che ha fatto dovrebbe essere processata, condannata a una pena detentiva congrua e tutti i suoi beni gli devono essere sequestrati e ripagare i danni che ha fatto. Ma scusi, perché non si rovina la vita a mezzo milione di italiani e si fa finta di piangere. Però scusi Bianconi, ma adesso lei parla davvero sul serio? Pena detentiva, no, processo, serio, pena detentiva, esproprio dei beni. Questo è un atto criminale. Quello che ha fatto la Fornero è un atto criminale. Ma sta parlando degli esodati? Degli esodati sta parlando? Di che cosa? Sì, certo che parlo di io. Tutto il resto lo può fare. Quello che non può fare è non buttare mezzo milione di italiani nel dramma. Ho capito, ma sono stati. Ma ripeto ancora una volta: il suo partito, adesso poi lei mi attaccherà su questo, votò con la Fornero tutte le cose della Fornero. Ma Maurizio Bianconi si alzò, gli disse che è una delinquentata e voto contro. Rispondo sempre dei miei atti. Poi se il mio partito mi vuole buttare fuori, mi butta fuori, non penso, perché poi piano piano ci arrivano tutti a questi. C'è arrivata, ma l'altro giorno Confini ho visto un po' di gente lì sul poca gente lì. Io non lo seguo più. Non lo segue più Fini. Non lo so, neanche non mi interessa più quello che fa Fini. Ha fatto dei danni veri. Io sono stato l'unico Fignano. E processiamo pure lui allora? No, per lui ha sbagliato politicamente, non ha rovinato la gente. Lui ha deluso noi e ha distrutto tutto. C'era pure la Buongiorno là, l'avvocato l'altro giorno. Ma l'avvocato non è mica una che è di destra. Andava là dove la portava Andreotti e quindi lei ha. seguito quella quel filone lì, insomma, voglio dire, no, la Buongiorno c'era non, Passera, è, non era c'era uno Passera, dei nostri, c'era Passera, ho visto. Sì, no, non so se c'era Passera. Ecco. Comunque si vogliono bene adesso. No, la Buongiorno sta con Passera, sì, perché sta con Passera, sì. Con Passera. Vabbè. Caro Bianconi, la saluto. Lei mi vuol far dire una cosa che non dico. No, per carità, che cosa le voglio far dire? Ah, sì, la battuta che lei ha fatto su Twitter. Sì, Buongiorno con Passera. Ah, sì, adesso me la ricordo. Sì. Buongiorno. Invece non perché si è pentito, perché lei perché un conto è scrivere su Twitter, un conto perché lei si è pentito, di aver scritto questa battutaccia sull'avvocato Buongiorno. Perché io di fronte a una battuta perdo un amico e quella mi è venuta così bene che l'ho dovuta scrivere. La battuta era, caro Parenzo, la battuta era su... No, mi fa prendere una querela, smetta. Ma smetto, tanto l'ha scritto, ormai è inutile, che querela? Buongiorno con Passera, l'avvocato Buongiorno con Passera, l'ex ministro Passera. Qualcuno, perché? Qualcuno diceva che non ce l'aveva nemmeno la Passera, una cosa di questo tipo. Questa era la battuta di Bianconi. Sì, ma l'avevo scritta molto meglio. Aspetta. Molto meglio, adesso molto la vado a prendere, io non me la ricordo più. Una cosa? Dimmi, che c'è? Continua a non capire come mai... Ah, sì, eccola qui, la Buongiorno con Passera. Strano, molti giuravano che non ce l'avesse. Beh, no, e ride, si pente e ride, c'è una cosa pazzesca. Ripeto, per la battuta faccio dei danni. Dimmi, Parenzo, che c'è? Continua a non capire una cosa, come mai allo Stadio Olimpico ci sono più persone che a un comizio di Giovanardi sulla droga? Non capisco perché. Più persone che a un comizio di Giovanardi sulla droga? Hai detto una cazzata? Grazie, non Bianconi! Danzano come zanzare. Sono tempi duri, non tanto per noi. No, non ce ne frega niente. No, a noi nulla, a noi nulla, zero. Ceneri della città, sulla strada. Allora, c'è un tizio che lavora a Rai 3 e fa il produttore in una trasmissione di cultura di Rai 3 che si chiama Danilo Leonardi, caro Parenzo. Danilo Leonardi, che ha scritto delle cose forti, io le definisco forti, altri le definiscono terribili sugli omosessuali. Ha detto che il gay pride gli fa schifo, ha detto anche, ha scritto rispondendo a un altro signore su Twitter che la stragrande maggioranza dei pedofili sono gay, come lei, riferendosi al tizio che lo attaccava, e ha parlato anche di dominio, no, di cultura, di regime gay, di un regime gay oppressivo. Quello che ha colpito è soprattutto l'accostamento tra pedofili e gay, La stragrande maggioranza dei pedofili sono gay. Danilo Leonardi. Ora però lo attaccano, l'ha attaccato anche Vianello, qualcuno lo vorrebbe cacciare dal servizio pubblico, ragazzi. Di che stiamo parlando? Dai, su, cioè, cacciare dal servizio, perché non può fare queste dichiarazioni, non è libero di dire quello che pensa. Bisogna sempre stare nel politicamente corretto. Questo ha detto delle cose anche forti. La stragrande... Non è la zanzara lì, però è il servizio pubblico. Ma quello che c'entra, mica va in video, mica fa il conduttore, è un dipendente della RAI, e che un dipendente della RAI non può esprimersi, non può dire come la pensa, non ho capito. Ma quello, per carità, va a una cena tra amici sicuramente. Ma che c'entra una cena tra amici? Ma che cazzo dici? Non c'è la libertà di espressione. Ma certo che c'è, dopodiché, ma infatti credo che e allora basta. Credo che cacciarlo sarebbe assurdo, ma è anche sicuramente un richiamo, anche quello probabilmente sarebbe eccessivo. Dopodiché tu sai che lavori per il servizio pubblico. Ma quello sono cazzi suoi, il fatto che lui si vuole esporre, il fatto che questo qua si vuole esporre e dire queste che io considero delle cazzate, cioè va benissimo, non ho capito qual è il problema. Il pubblico potrebbe dire che non è compatibile con quel che fa, cioè queste parole così crude possono non essere compatibili con quello che è il servizio pubblico. Qualcuno potrebbe dire, ma se lo dica, non dire cose ovvie per nascondere quello che pensa. No, questo qua è libero di dire quello che vuole. Posso dirti quel che penso? Ecco, dimmi quello che io pensi senza girarci intorno, dai. Qualcuno in un'azienda privata, come potrebbe essere la nostra, il Sole 24 Ore intendo, qualcuno ritenesse che non i nostri contenuti, quella della trasmissione Miao Miao Micio Micio, non sono consoni con la missione che si dà a Radio 24, caccerebbero. Ma non dire cazzate. Scusami, su. Ma, non è, ma questa non è una trasmissione, ma non c'entra nulla. Ha espresso il proprio pensiero, non l'ha detto in una trasmissione. Non conduce una trasmissione, non dire cazzate. Sto dicendo un'altra cosa. Se vuoi capire, capisci. Ma non devi difendere per forza l'indifendibile. Dai, su. Ti passo il comandante, pare con il comandante. Il comandante magari non va a stare il comandante. Sto andando, adesso. Vabbè, ho capito, caro Parenzo. Il punto, il punto fondamentale è uno. Stanno massacrando un signore che ha scritto, secondo me, delle cazzate, soprattutto quando ha accostato la pedofilia all'omosessualità, perché ha scritto la stragrande maggioranza dei pedofili sono gay, come lei, rispondendo a uno. Il fatto che lavori a Rai 3, a Rai 2, a Rai 1, non c'entra nulla, non dovrebbe c'entrare nulla, zero, chiaro? È libero di dire quello che vuole, poi se ci sono, se dice delle cose diffamanti, qualcuno lo porterà in tribunale, se lo vuole portare in tribunale. Enzo da Trieste. Pronto? Dimmi, dai. Ciao Cruciani. Vai, forza. Volevo parlare del crocifisso, no? Quello che ha detto Toscani, Crepè, eccetera. Secondo me il crocifisso non è da mettere, non bisogna toglierlo. Io fin dall'asilo ho avuto il crocifisso sopra la testa, là in aula, poi tutte le medie, fino all'università c'era sempre questo crocifisso, non ha mai fatto male a nessuno. Al massimo, per Toscani che è un esteta, si può togliere il cadaverino, come dice lui, e lasciare i due legnetti, uno o due. Semplicemente così. Boh, vabbè. Non ho capito. Poi, che cosa dovrebbe fare? Che cosa dovrebbe fare? Non ho capito. Se gli fa schifo. Di mettere il Cristo, la statuetta, sai, sofferente, con tutti i buchi, eccetera, e i chiodi, si mettono due righette di plastica, di legno, no? Due segmenti, uno più corto, uno più lungo. E basta. Ad esempio in Israele c'è la croce di Davide dappertutto. Ma ho capito, anche sui carri armati. Però scusi, Enzo, è un simbolo. Io da questo punto di vista, a Toscani fa schifo, a me mi è francamente indifferente, rappresenta certamente una storia. Sì, perché io non credo, però rappresenta una storia. Adesso questa storia è fatta, certo, anche di drammi, come tutte le cose che riguardano anche le religioni, no? Cioè, è fatta di drammi, per cui c'è quel simbolo lì che viene messo storicamente. Adesso andarla a contestare perché secondo lui è un simbolo sadomaso. L'altro dice che è triste, sì, provoca impressione, mette paura, dunque bisogna sostituirlo con il bambino Gesù sorridente. Adesso, francamente, quelle sono opinioni che ci possono stare. Qualcuno potrebbe trovare offensive. Ho avuto, perché è rivoluzionario? È un po' il Cristo, cioè è il simbolo della maggioranza italiana, dai. Fermi tutti. Togliendo del brutto. Casomai aggiungiamo gli altri, la Stella di Davide. Sì, aggiungiamo tutti gli altri, che fa Morpantheon, dai, su. Traffico veicolare. La zanzara è quell'odioso insetto. Ottima trasmissione, sempre la visione. Perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede. Ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist. La zanzara twist. Vincenzo, provincia di Monza. Sì, vai, dimmi. No, volevo dirti che semplicemente che secondo me tu devi avere dei problemi seri nel tentativo di voler sembrare sempre intelligente, sempre in qualche modo contro. Cadi delle volte in delle banalità mostruose, la banalità del mare, veramente. Vediamo il professore. Te lo dico, aspetta. Sentiamo il professore. Fai parlare. Sentiamo il professore. Ti riempi la bocca con la libertà di espressione, fai parlare. Sentiamo il professore. Capisci 30 persone morte. Sentiamo il professore. Cosa vanno incontro perché c'è internet, perché sentiamo c'è il professore. Sentiamo il professore. Un bambino di 2 anni. Sentiamo il professore. A dire appunto, proprio perché sanno a cosa vanno. Sentiamo il professore. Evidentemente a casa loro dei problemi ci sono, e come dire, ecco il professore a chi si lancia dalla torre gemella in fiamme, ma lo sai che 30 metri di sfracelli, ma idiota, lo capisci che dietro ci sono le fiamme, idiota, sì. Io non dico che ti debbano accogliere tutti, la soluzione deve essere chiaramente politica, ma almeno davanti a queste cose abbia la bontà di tacere, di avere capire, ma chi cazzo ti ha messo in quel posto, sei un idiota, in questi casi bisogna solo tacere, se non hai soluzione politica stai zitto, idiota. Mi fai godere, Vincenzo, mi fai godere. Richiamatelo questo imbecille. Giuseppe dalla provincia di Taranto. Buonasera, Cruciani. Dica. Allora condivido l'idea dell'onorevole Bianconi e vado anche oltre il lucido piano di cui lui parla, cioè io parlo anche di connivenze sul piano della, di un possibile ritorno di quello che è il guadagno sporco. Cioè questo, non ho capito, questo complotto per la grande invasione, questo certo. Disegno, lucido disegno, se no ti becchi del coglione, per la grande invasione, di chi sarebbe? Secondo lei, Cruciani, l'Europa di oggi e il mondo di oggi non sa chi sono i criminali che gestiscono questo sporco affare e allora? In Africa? E allora perché non, cioè, non fanno nulla? Perché conviene a qualcuno far arrivare, far esplodere le crisi in Italia, far arrivare grandi masse di migranti. Non solo per l'utilizzo della manodopera, ma anche per avere un ritorno economico, perché qua si spartiscono anche tangenti tra la mala che gestisce questa tragedia di traffico umano e una certa cupola di gente politica che non solo ha la camicia sporca, ma ha le mani sporche di sangue di questi poveri sventurati. Vabbè, grazie. Massimo Novara, buonasera. Massimo. Massimo, un attimo. Pronto? Sì, Vincenzo? Sì, chi è? Qui la redazione della Zanzara. Ah, dica, scusi per i toni, mi sono un po' infervorato. Un attimo, la rimetto in linea, non si preoccupi. Ok. Non me moleste moschito. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Guarda, oh, abbiamo di nuovo in linea Vincenzo da Monza. Ciao Vincenzo. Allora, non ho capito, professore, mi spieghi lei allora? No, professore, professore, un cazzo, vedi, già cominci così, professore, che cazzo vuol dire? Se pensi di essere intelligente, queste cose. No, no, sono un imbecille. No, ma poi la figura dell'imbecille, perché parli con interlocutore, professore, non sono professore, sono operaio, va bene? Operaio, bene. Va bene, lo stesso. Bene. Operaio barra professore, operaio. No, senza professore, vedi, ma mi ha chiamato per dire ste cazzate, non vorresti fare il figo? No, scusami. Ma ti rendi conto? Vincenzo. Vincenzo. Allora, se vuoi parlare con me, smetti la costazione del professore. Senti, amico mio, non è che mi inviti a nozze, capito? Ma cioè, mi inviti a nozze. Mi inviti a nozze con queste cose, con questi discorsi, con questi toni, con questi toni. Ma mi inviti a nozze, capito? Ti prendo di merda, di nuovo, mi chiami per dire stronzate? No, vorrei farti notare che al centralismo, quando ti abbiamo richiamato, ma vorrei farti notare, hai detto no, scusate, però forse mi sono espresso in maniera un po' troppo no, infatti ero infervorato, ma se tu mi richiami e dici cosa vuol dire? Quindi, vabbè, allora Vincenzo, scusa, certo che mi scuso per i toni, ma sono sì. Uomo, non come te che ha 3 anni sì. professore. Senti, la cosa che volevo dire, la cosa che volevo dire prima che hanno capito tutti è che non che sono contento del fatto che le persone muoiano. Sto dicendo, stai zitto, adesso. Oh, imbecille, stai zitto un attimo. Stai detto che sei contento. Senti. Vabbè, lasciamolo parlare in libertà. Dai, vai in libertà da solo. Fai il comizio, vai. Che comizio fai? Non ho mai detto che tu sei contento. Vai, fallo. Fai il comizio, vai. Arriverebbe a capire che pur sapendo che vanno incontro alla morte quelle persone, questo non dovrebbe essere un'accusa di irresponsabilità, ma appunto dovrebbe far capire quale che drammatica situazione che vivono queste persone, no? Ma ci arriva un bambino di 3 anni, ci arriva. Tu non ci arrivi e stai scontato di fare il figo. Mi chiami professore. Non sono un professore, sono una persona che ragiona. Bravo. Buonanotte. Vai a dormire. Ciao. Cresci. Vai a dormire, vai. Loreto, Teramo. Anzi, c'era Massimo da Novara, vai, Massimo. Pronto? Massimo, dimmi. Pronto, dottor dimmi. Cruciani? Sì. Sì, buonasera. Prima ho sentito le sue dichiarazioni che parlavano della disperazione che ci accompagnerà sempre. Ecco, questo è un concetto che è sicuramente molto reale. 2000 anni fa, infatti, anche Gesù Cristo fece la stessa dichiarazione, dicendo chiaramente che i poveri sarebbero sempre stati col genere umano. E nello stesso tempo mi sembra però giusto evidenziare che Gesù Cristo, attraverso le sue opere, fece qualcosa di importante per il genere umano e ha promesso che lo farà in larga scala attraverso il regno di Dio. Sì, vabbè, Massimo, adesso non è che possiamo, questa non è mica Radio Maria, però, amico mio. Cioè, no, non è Radio Maria. E allora non ci rompere i coglioni alle 20:24, scusa. No, vabbè, ma guarda che questa è un'affermazione che tutti possono riscontrare attraverso lo studio delle scritture. Va bene, ma a noi lo studio delle scritture in questo momento non ci interessa, lo studio delle scritture, scusa, abbi pazienza. Qual è è il problema? Qual è il punto? Non ho, io ho detto semplicemente che la disperazione esisterà sempre. Mi dispiace, ma il mondo ideale in cui non c'è disperazione non esiste. Il mondo ideale in cui non c'è disperazione non esiste. Invece il punto di vista di Gesù è quello di dare un po' di conforto a questo. Vabbè, questo è il punto di vista di Gesù, di dare conforto, lo sappiamo. Lui lo porterà in maniera concreta attraverso il regno. Questa è la testimonianza che noi desideriamo dare a tutte le persone. Ma desideriamo noi chi? Ma noi chi? Desideriamo dare noi chi? In tutto il mondo i testimoni di Geova stanno. Ma chi se ne fotte dei testimoni di Geova? Lei ci chiama per dire noi vogliamo dare la testimonianza dei testimoni di Geova. Ma ce ne sbattiamo i coglioni noi dei testimoni di Geova in questa trasmissione, ce ne sbattiamo i coglioni. Però noi la diamo e diamo conforto. E vabbè, e la date, date conforto. Adesso ci devo fare tutta sta pippa, tutta sta pippa per dire noi siamo i testimoni di Geova. Ma chi se ne frega? Ma è con noi, caro Parenzo, Giancarlo Gentilini, buonasera. Ciao cari ascoltatori. Come andiamo? Come... Peggio di così? Beh, peggio di così, che è successo, Gentilini, che è successo? Beh, innanzitutto sono stato estromesso dall'amministrazione della città di Treviso. Beh, perché hanno votato gli altri. Colpe dei padri sono cadute su Gentilini, hai capito? Cioè, tu dici Bossi, Bossi. I grandi capi hanno fatto quello che non dovevano fare, sì. E quindi abbiamo pagato noi, perché pensa che per Treviso hanno fatto un'inchiesta, il nuovo sindaco, sì. Vedere quanti appannaggi aveva avuto Gentilini in 20 anni di amministrazione, il comune di Treviso ha rimborsato a Gentilini 2 caffè e 2 birre. Addirittura. Questa è stata l'amministrazione della città di Treviso. Vabbè, però i cittadini hanno scelto un altro sindaco, adesso cambiamo pagina, voltiamo pagina. Gentilini, scusi. Pagina, ormai l'acqua passata. Acqua passata. Non pagina più. Scusi un attimo, Gentilini, ma è finita un'epoca. A lei che cosa farebbe con i barconi che arrivano in Italia? I barconi. Io nel 95. Sì. Che l'Italia deve diventare uno stato di diritto. Sì, vabbè, doveva fare le acque territoriali. Sì. Uno doveva superare le acque territoriali, come l'Australia. Sì. Non devono partire. Ecco. Sì. E se arrivano vicino? Di blindare anche i confini. Sì, blindare i confini. Non è possibile che dall'est ci fosse stato un afflusso, sì, di gente senza patria, senza soltanto venire qua per rubare, eccetera. Cioè, bisognava blindare i confini italiani. Sono sacri. Sì. Abbiamo combattuto dalla fine dell'Ottocento per i confini italiani. Scusi, sono attimo. Sacri. Nessuno deve violarli. Gentilini, le leggi devono dare la possibilità per far entrare la gente. Io ho sempre detto... No, per impedire. Io sono favorevole a che cosa? Alla immigrazione, ma una immigrazione controllata. Scusi. Lo Stato di diritto deve sapere in ogni secondo della giornata chi è che calca il territorio italiano. Sia chiaro. Sia è chiarissimo. Scusi, Gentilini, ma allora quando arriva un barcone e si avvicina alle coste italiane, se quel barcone lì supera, lei che cosa farebbe? Darebbe l'ordine di sparare? Darebbe l'ordine di sparare? No, assolutamente. Ormai è un'invasione caldeggiata e appoggiata dalle sinistre, sì? E anche da tante gerarchie della Chiesa. Pure. Dopo. Mm. Ma scusi, ma questa operazione di prendere i barconi e di portarli in Italia in salvo, diciamo. No, bisognerebbe che dire ritornate da dove siete partiti, ma la guerra contro Gheddafi è stata un errore. Perché Gheddafi, pur dittatore, ma comandava tutta la Libia. E poi, sai, io non mi ricordo più chi disse giorno verrà in cui i cavalli di qualche religione andranno a bere l'acqua nelle fontane di San Pietro. Ecco, non vorrei che questa previsione, sì, si verificasse. E chi è che quindi spetta allo Stato emanare le leggi secondo cui la responsabilità non può essere data a quei poveri cristi, sì, di sindaci, come era successo quando ero però, io. Però scusi, gentilmente, adesso quando il nuovo sindaco di Padova. Oh, ne parleremo tra poco, problemi. Tra poco ne parleremo. Fermi tutti, torniamo tra un attimo con l'ex sceriffo Gentilini. Attento al DDT, sai. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Scusi, vorrei capire, ma chi cazzo ti ha messo in quel posto? Sei un idiota. In questi casi bisogna solo tacere. Se non hai soluzioni politiche, stai zitto, idiota. Oh, Vincenzo, scrive Pierluigi Baschieri, condivido tutto, parole e toni di quanto ha detto Vincenzo, l'orgoglioso operaio di Monza. Cruciani, vergognati. Ancora un altro, cosa che ha detto Alessandro, che scrive: io amo Vincenzo, qualcuno finalmente che è riuscito a cantargli da quel cazzone di Cruciani, firmo con nome e cognome, se volete chiamarmi il mio numero è eccetera eccetera. Caro Cruciani, quando ce vo, ce vo. Guarda, io godo tantissimo quando qualcuno mi dice così, godo da pazzi quando uno si esprime in questo modo, godo. Lo volete capire o non lo volete capire? Non avete capito nulla, niente. Ma è con noi l'ex sceriffo di Treviso, che oggi ha trovato un suo emulo, ha trovato un suo imitatore a Padova, in Massimo Bitonci, Giancarlo Gentilini, eccolo qui. Caro Gentilini, voglio sapere una cosa da lei, ma la questione di Berlusconi e della Pascale, eccetera, che hanno aperto al matrimonio gay, lei come la considera? Ma io sono ancorato ai vecchi principi dei miei avi. E quali sono? Quelli che sono quello che mi hanno insegnato nel collegio vescovile Pio X. Ho fatto 9 anni di collegio e mi hanno insegnato che il matrimonio è uno solo, uomo e donna. Tutti gli altri sono i palliativi che portati avanti da certe frange estremiste. Sì. Ma c'è una porcheria, un uomo che va con un uomo, una donna che va con una donna. No, assolutamente, non ci siamo. È una porcheria. Posta contro quelli che sono i nostri ideali, quello che ci hanno insegnato. Sì. Ma a questo mondo non c'è più da meravigliarsi niente. Di niente. Hai visto Venezia col Mose e con tutti quanti? Tutti hanno attinto a piene mani sui canali pubblici. Sì. E adesso? Questa è la realtà di questo. Il denaro apre e chiude. Ma che c'entra il denaro con i froci? Io non ho niente contro i gay. Ma a un dato momento l'esibizionismo non mi è mai piaciuto. Beh, lei li chiamava culattoni anche, eh? In gergo trevigiano si chiamano culattoni. Lo dicevamo a 15 anni, 10 anni, 12 anni. Beh, lei l'ha detto anche dopo, Gentilini, non se l'è fatto, non è che se l'è fatto scappare anche dopo, non si è risparmiato successivamente. Ma se lei vede due uomini che si baciano, che effetto le fa? Ma mi fanno schifo. E due donne che si baciano? Epidemicamente mi fanno schifo. Sì, e due donne uguale? Due donne uguale? Sanno, hai capito, dico, sanno da uomo. A me piacciono i profumi femminili. Sì. Sono della vecchia guardia. La vecchia gioventù. Io faccio parte ancora della maschia gioventù degli anni 40. Le piace la patonza, Gentilì? Le piace quella roba lì, no? No, ma certo, quella è la cosa più bella che il Padre Eterno abbia creato. Non c'è dubbio. Scusi, Gentilini, io vorrei capire una cosa, ma il rapporto sessuale tra due uomini, lei se lo immagina, le fa orrore la sodomia? Orrore no, perché l'orrore ho assistito durante la guerra. Certo, torture, per carità. Certe cose che fanno ripreso, soltanto mi vengono i brividi soltanto a pensare, ma... il rapporto fra due uomini mi fa schifo. Le fa schifo, schifo. Le fa schifo, sì. Schifo e schifo. Schifo e schifo. Ecco. Ma sono malati gay? Secondo gli orrori della guerra, perché... No, ma secondo lei sono malati gay? Ma dicono, ci sono tante teorie. Le teorie che dicono che è un vizio. Sì. Tante teorie dicono che è una malattia. Sì. Tante volte, tanti dicono che è una perversione. Sì. Chi ne ha più ne metta, insomma. Io non sono né un medico, niente, ho fatto il leguleio. Sì. E quindi non entro nel merito della... Vabbè, avrà una sua teoria, però. la mia teoria è che a un dato momento non ci dovrebbe essere questa enfatizzazione di questa virtù, quasi diventa una virtù adesso. Quasi diventa una virtù, eh. Per esempio Putin in Russia proibisce la pubblicità, la pubblicità gay. Con linguaggio la propaganda, no? La propaganda gay, Putin la via. Non si dovrebbe. Sono argomenti non devono essere portati alla luce del sole. Non capito? Si dovrebbe parlare di queste cose. No, assolutamente. Dobbiamo parlare di uomo e donna. Sì. E di donna e uomo, ma non di due uomini o due donne. Ma nella Lega ci sono i gay, secondo lei, nella Lega? Ma ci saranno, sì. ma si hanno detto che c'è questo ci sono anche nelle forze armate. Beh, quello sì, sicuramente ma qualcuno. Ma lo dicono anche negli Stati Uniti. A voglia, sì, adesso possono anche dichiararsi. Possono dichiararsi, certo. Sta espandendo, certo. Perché certi fenomeni nascono anche dalla troppa pubblicità. Dalla troppa pubblicità, certo. Ma le adozioni, per esempio, vuol provare, magari qualcuno che vuol provare. Ma qualcuno ci ha mai provato con lei quando era giovane? Qualcuno? No, non ho avuto mai tentazioni. Non ha avuto mai tentazioni. No, neanche sotto la naia. Neanche sotto la naia. Parenzo, anche che c'è? Che dici, Parenzo? No, ti dico, intanto è tornato il mio amico, tra l'altro, l'ho conosciuto 5 minuti fa, quindi non è che posso chiamarlo amico. E qui stiamo aspettando l'inizio del concerto. Vuoi salutare, insomma, Materazzi, Gentilini, il sindaco di Treviso? No. No, figuriamoci. No, non gli interessa, giustamente, assolutamente. E anche a me francamente non interessa, perché tra Materazzi alla mia sinistra e il comandante Rossi, Vasco, tra pochi minuti, dimmi te perché devo star qua a perdere tempo con un ex politico trombato che dice, con tutto il rispetto, e usiamo un linguaggio che forse a questo non si dovrebbe usare, delle cazzate micidiali sulla questione dell'omosessualità, dimmi te perché dobbiamo stare qui ancora a interpellare un signore che ormai ha finito, ha fatto il suo tempo, basta. Gentilini, risponda lei a Parenzo, risponda lei. Non sento. Pronto? Sì, pronto, pronto. Maestro, pronto. Comandante. Comandante, comandiamo. Sono comandante. Come puoi? Gentilini qua, no, porca miseria. Si sente poco. Comandante, la ringrazio, l'abbraccio. Comandante, arrivederci. Loreto, Teramo, Loreto. Sì, buonasera. Vai. Senta, all'inizio di trasmissione è intervenuto un signore qualificandosi omosessuale e ha detto che se, da ragazzo, se si avvicinava una donna gli faceva schifo. E tu, Parenzo, gliel'hai fatto ripetere più volte. Adesso io dico, se io dicessi che un gay mi fa schifo, sì, come ha detto Gentilini prima, sì, che se mi sente un gay può anche denunciarmi. No, questo purtroppo sarebbe la follia di una legge, quella che vogliono fare sull'omofobia. Sarebbe una cosa folle. Capisce che forse voi per giustamente voi con questo lavoro c'è campate, si dice a Roma, no? Voi lo fate apposta a fare trasmissioni di questo tipo, anche provocazioni a Gentilini, che cioè fargli dire cose che magari poi fate ripetere per mesi e mesi, no? Rimettete in onda. Cioè, il problema gay effettivamente ma mica c'è l'etero pride. Mica c'è. Ma perché non c'è trasmissione televisiva dove non ci sono decine di gay? Ma chi ha detto? Ma dove stanno queste decine di gay? Ma Loreto? Ma come dove stanno? Lei si chiama anche Loreto, si chiama. Amici, da tutte le parti ci sono gay. Non c'è trasmissione, la pubblicità, dappertutto. Madonna, lasciateli vivere questi poveri figli rispettando il sesso che il Signore gli ha dato. Lasciateli vivere tranquilli. Ma chi dobbiamo lasciare vivere tranquilli? I ragazzi, i bambini, le bambine. E che fa? Che succede con i ragazzi e le bambine se vedono i froci? Loreto, che succede? Ah, non lo so io se questa società deve badare a quello. Abbiamo tanti altri problemi, tanti. E va bene, se vuole sentire. Famiglie che non arrivano alla fine del mese, e allora? Si suicidano. E allora? E allora lasciamoli stare. Ma chi? I bambini? Che facessero, chi? Facessero le loro feste, gli orgogli li difendessero, li portassero, ma senza cimentare la povera gente, la gente qualunque. E voi che gli fate da megafono? Vabbè, grazie. Alessandro da Milano, dai. Da megafono. Alessandro. Ci sono? Sì, Alessandro, sì. Allora, detto, io ti adoro, guarda, sei il migliore, il numero uno, Parenzo, non lo posso soffrire. Che Dio ti spolpi, Parenzo! Ti spolpi. Che Dio ti... Ma quello tanto oggi non sa, no, è distratto, sta lì. Ma si sta facendo i cazzi suoi come lancio, al solito. Ti lancio David, un sasso. Dimmi, caro. E rispondi, no. Ma questo da cosa? Questo qui sta parlando dalla corsia dell'ospedale, poveretto, non è che gli si può dire a questo. Questo è scappato dalla corsia, gli stava facendo la puntura, è scappato, ha preso il telefono, ha chiamato la zanzara, evidente, un matto. Delira, senti che delira, portalo via, dai che arriva l'ambulanza, via, via, ha fatto il suo tempo, chiuso. Oh, beh, bellissimo chiudere la trasmissione con Lino Banfi. Ciao Lino, come stai? Ciao, bene, bene. Allora? Che mi dici? Allora, sto vedendo per dare dei consigli come Ronzo Canà a questi signori dei mondiali, anche se noi non ci siamo più, che almeno insomma l'Algeria, per esempio stasera io tifo Algeria, non so perché. Poi come mai tifi Algeria, Lino? Ma perché mi piace. Ti piace l'Algeria? Ti piacciono le squadre povere. Le squadre quelle povere, d'altra parte hanno tanti soldi. Oronzo Canà allenava le squadre povere, diciamo, le squadre Oronzo che Oronzo Canà era il 5-5-5, no? La 5-5 è la Bizzona, che era la Bizzona, famosa Bizzona, Lino, sì, esatto. La Lombarda era una squadra povera che poi ha vinto, ecco. Senti, Lino, ma no, ho rivisto un tuo film straordinario che dava in televisione, che si chiama Spaghetti a mezzanotte. Ah. Con quella bellissima della signora Carol Bouquet. Beh, siamo al top dei film. Dovresti mandare la sigla di quel film, che era straordinario. Senti Lino, ma a proposito di Oronzo Canà, ma non è che Balotelli ti è sembrato in questi mondiali come che si chiamava quello, Aristoteles, te lo ricordi? No, come Aristoteles no, ma sarebbe stato un guaio, perché se io avessi avuto lui come Aristoteles, manco la Ninna Nanna gli andava bene a suo disgraziato, continuava, perché si lamenta sempre, eppure gli vogliamo tutti bene, un grande campione. Però se io potessi parlare con Oronzo direi, ma che sto ti lamenti sempre? Che come... Cioè, però un po' giocatore. Però non dico come Aristoteles, però le donne, anche Aristoteles era uno un po' così, le donne sembra un campione e poi si rivela insomma una mezzo qualche cosa di comune ce l'ha con Aristoteles, o no? Sì, poi essendo un bel fico lui, perché ha un bel fisico, giustamente tutte quelle che si chiamano fico insomma è giusto che come Raffaella Figo, certo. Ma scusa un attimo, ma invece Prandelli come Oronzo Canà? No. Com'è? Prandelli come Oronzo Canà? Prandelli io gli ho dato dei consigli utili, lui li ha seguiti per un po', ma non l'hanno seguito i disgraziati dei due Monelli e gli altri, non ne hanno tenuto conto e quindi è andata a Maruccio. Però lui è bravo, Prandelli è uno dei miei allievi più in gamba, a Coverceno nella primavera, poi era anche nell'inverno, nell'autunno. Senti una cosa, ma tu chi metteresti a commissario tecnico della nazionale? Tutti fanno i nomi ormai, dai. No, io riconfermerei lui, perché sono sicuro che lui può creare delle belle squadre. Ma ha detto di no, ha detto che conferma. Scoraggiato, però insomma ci starebbe. Ce n'è in Italia di quelli bravi. Vabbè, uno, il tuo nome, il tuo preferito, chi è? Berlusconi. Ma Berlusconi. Io tenterei anche no, chi è che ha detto Berlusconi? Io ho detto Berlusconi, sarebbe straordinario. No, CT della nazionale. Allora è meglio Dodò, il difensore della Roma. Così se Berlusconi lo prende fa compagnia a Dudu e Dudina. Sì, quello può essere un... Dudu e Dudina. Questo può essere un'idea, però dimmi la verità, Berlusconi commissario tecnico, tanto ormai ha fatto tutto Berlusconi, può pure fare il commissario tecnico della nazionale. Beh, è troppo anziano per fare il commissario tecnico. Renzi invece si mette a gridare in toscano e quindi somiglia a Spalletti. Dici, Senti, ma hai visto questa apertura di Berlusconi nei confronti del mondo omosessuale? Certo, ha fatto un po' impressione, soprattutto per le cose che aveva detto nel passato, anche se è sempre stato un po' libertario da questo. Comunque, importante non essere omofobi, il resto va tutto bene. Vogliamo parlare degli argomenti senza girarci intorno molto? Cioè? Parliamo degli argomenti importanti. E qual è? Vogliamo parlare di Sting. Di, ah, Sting, cosa? Quello, quello che ha detto sui figli Sting, che non vuole lasciare un euro a Sting. Ai figli, cioè, che Sting non vuole lasciare un euro. Quello mi sembra giusto o no? O è sbagliato? Assolutamente sbagliato, perché se lui ha scoperto che i figli sono un po' stronzoli, come si dice in inglese, sì, e allora è giusto, ma non giusto così drasticamente giusto. Si dice, ragazzi, state attenti e non fate, non sperperate, perché sennò io dico stop e non avete più un cazzo. Se questo non accade, come nel mio caso, in tanti casi di altri artisti italiani, a parte il fatto che io guadagno 20-30 volte più di lui, però è un morto di fame a lui. Però quando io vedo un mio figlio che ha bisogno, devo lasciare tutto a lui, perché se no sono lavorato a fa. Io non voglio che i miei figli passino i guai che ho passato io. Ho capito, però Lino, il punto fondamentale è che lui ha detto: io voglio i miei soldi, voglio farci quello che mi pare fino a quando schiatto. Dopodiché i miei figli devono essere bravi a, a lavorare, a guadagnare, a costruirsi una loro vita. Non è sbagliata come cosa. Ma non è sbagliata, ma può fare anche un conto rapido. Quanti anni ha lui? Quanti anni crede di poter campare? Allora dice: io ho un capitale di 300-400 milioni di dollari, quello che dicono loro. Metà me li fotto io, mi vado a divertire dove voglio, metà li lascio ai figli, diviso in sei. Quindi non è neanche male quella, quella soluzione. Lì. Vabbè, comunque, ci sentiamo presto. Ciao, Lino. Ciao. Dove andiamo? Alessandro, voglio sentire l'ultima cosa. Marco da Bari, dai, Marco. Marco. Buonasera. Dai, vai. Volevo dire semplicemente, per quanto riguarda i barconi che arrivano, che l'immigrazione, che noi non possiamo ospitarli, dobbiamo risolvere i problemi loro sul, sul loro posto, aiutarli sul posto là, non per cattiveria, perché qui che cosa li possiamo no, dire? No, lei è razzista, lei è contro la modernità, lei sta dicendo delle cose tremende, lei è cinico, non è umano. Ci sentiamo domani alle 18.30, ciao. Avete finito? Avete finito. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Io sono gay nel senso che sono maschio, mi piace il cazzo, punto. Radio 24. La passione si sente.